pubblicarono il giornale La Via della Libertà, organo principale del movimento macnovista, e crearono l'Unione Anarchica di Guglia e Pole. Nacque anche l'organizzazione anarchica L'Allarme. Essa operò in stretto contatto con i macnovisti. Dopo un po' di tempo questa organizzazione si fuse con l'Unione Anarchica. Sempre ad aprile i macnovisti convocarono il terzo congresso dei soviet della regione di Guglia e Pole, che adottò una risoluzione in cui possiamo leggere: il congresso protesta contro i metodi reazionari del governo bolscevico, che ha sparato contro i contadini, gli operai e gli insorti. Reclama l'attuazione del libero principio di elettività. Reclama la sostituzione dell'attuale politica di razionamento delle derrate alimentari con un adeguato sistema di baratto. Reclama piena libertà di parola, di stampa, di riunione per tutte le correnti politiche di sinistra, cioè per i partiti, per le organizzazioni rivoluzionarie e in generale per il popolo lavoratore. Il 25 aprile sul giornale Izvestia di Charkov apparve l'articolo dal titolo Abbasso la macnovicina, nel quale era scritto: il movimento insurrezionale dei contadini è accidentalmente caduto sotto la guida di Macno e del suo comitato militare rivoluzionario, nel quale hanno trovato rifugio anarchici, avventuristi, quei socialisti rivoluzionari di sinistra che non sono passati ai bianchi e altri ex rivoluzionari ormai corrotti. Caduto sotto la guida di tali elementi, si è privato delle forze più significative e i suoi successi non hanno potuto essere consolidati. Bisogna porre fine alle nefandezze che si verificano nel regno di Macno. Macno, il 29 aprile, ordinò di arrestare alcuni commissari bolscevichi. I rapporti rimasero tesi fino a quando il comandante del fronte ucraino, Antonov Ovsenko, non si recò da Macno per trovare insieme una soluzione. Macno accettò nuovamente i commissari e cercò anche di far rilasciare gli anarchici ucraini detenuti nelle prigioni della Ceca, ma la soluzione di questo problema fu rimandata. Il 4 o 5 maggio arrivò il plenipotenziario del Consiglio di Difesa della Repubblica, Kamenev, con funzionari del governo di Charkov. Egli salutò gli insorti presenti come eroi che avevano liberato con i loro sforzi la regione dello Hetman e difesa da Petliura e da Denikin. Kamenev però pose il problema del Consiglio Militare Rivoluzionario Regionale e disse che l'esistenza di questo consiglio accanto alle autorità sovietiche era del tutto inammissibile, per cui propose di scioglierlo. Ed ora ascoltiamoci una canzone scritta da Nestor Makhno nel 1919. Ничего впою, не жаль мне, ни о чем я не прощу. Анархия, мама, сынов своих любит, анархия, мама, не продаст. Свинцовым дождем врага приголубит, анархия, мама, за нас. Только радую собой на силе моего дружка. Спокойно, только мертвого врага. Анархия, мама, сынок. Il 12 maggio 1919 il quartier generale magnovista a Guglielmopoli ricevette un telegramma che annunciava la rivolta di Grigoriev. Grigoriev era stato un ufficiale zarista. Alla vigilia della caduta dello Hetman comandava una brigata di insorti a disposizione delle autorità petliuriste e divenne colonnello. Quando l'esercito petliurista si sciolse, Grigoriev passò con tutte le sue unità dalla parte dei bolscevichi, giunti in Ucraina dalla Russia centrale, e prese a combattere i petliuristi. Ebbe una parte molto importante nella liquidazione dei petliuristi nella provincia di Kherson. Poi prese Odessa. Negli ultimi tempi i suoi reparti tenevano il fronte verso la Bessarabia. Ma già dal 4 maggio i gregoriviani avevano dato inizio ai pogrom contro gli ebrei e alle uccisioni dei commissari politici bolscevichi. Grigoriev si trovò di fronte alla scelta tra salvare l'alleanza con i bolscevichi, contro i quali si era già mosso una parte del suo esercito, oppure preservare l'unità dell'esercito e unirsi alle varie ribellioni antibolsceviche verso le quali tuttavia non nutriva simpatia. Per contrastare Grigoriev, che aveva nel frattempo occupato diverse città e villaggi avvicinandosi alla regione magnovista, l'Armata Rossa dovette rapidamente riposizionare le sue forze sulla nuova linea del fronte. Anche i magnovisti furono coinvolti in questo riposizionamento, benché una parte di loro cominciasse a discutere se fosse o meno opportuno allearsi con l'Ataman. Il 14-15 maggio l'Armata Rossa passò al contrattacco sgominando le forze di Grigoriev e già nella seconda metà di maggio furono riprese tutte le città da questi precedentemente occupate. Makhno rispose a Kamenev in maniera abbastanza ambigua, così alle richieste dei bolscevichi di combattere contro Grigoriev. «Vi dichiaro che io e il mio fronte resteremo sempre fedeli alla rivoluzione degli operai e dei contadini, ma non ad istituzioni oppressive come i vostri commissari e le vostre commissioni straordinarie che agiscono d'arbitrio sopra la popolazione lavorativa. Se Grigoriev ha ceduto il fronte e ha spinto le sue truppe alla conquista del potere, egli si è messo in una avventura criminale tradendo la rivoluzione del popolo. Come rivoluzionario anarchico dichiarò di non poter sostenere in alcun modo la scalata al potere di Grigoriev o di qualsiasi altro, ma aggiunse: cercherò di respingere, come ho fatto sinora con i compagni rivoluzionari, le bande di Denikin, cercando nel contempo che la terra da noi liberata si copra di libere associazioni di operai e contadini che mantengano in sé e per sé tutta l'autorità, quindi gli organi di costrizione e di violenza, come le commissioni straordinarie e i commissariati, espressione della dittatura di un partito che opprime anche le unioni anarchiche e soffoca la stampa anarchica, troveranno in noi i più energici avversari. Il 12 maggio venne convocata una riunione dei comandanti e dei leader politici del movimento magnovista per discutere il rapporto con Grigoriev. L'assemblea decise di scagliarsi con le armi in pugno contro Grigoriev e di mantenere rapporti amichevoli con i bolscevichi. Ma l'accusa più grave mossa dai comandanti magnovisti che incontrarono Grigoriev fu di essersi rifiutato di attaccare le armate bianche. L'Ataman provò a controbattere, ma quando si rese conto di quale piega stesse prendendo la discussione, cercò di tirare fuori le armi. I magnovisti, che avevano tenuto le pistole a portata di mano, furono più rapidi di lui e Grigoriev venne ucciso. Quanto ai grigorieviani, questi furono inizialmente disarmati e dopo un intenso lavoro di propaganda inclusi nei distaccamenti magnovisti. L'inclinazione dei grigorieviani ai pogrom contro gli ebrei sembrava immodificabile. Presto Makhno fu costretto ad allontanare quei soldati dalle sue fila. Giunto in Ucraina il 22 maggio, Trotsky scrisse il suo pensiero in un telegramma. Per apportare un cambiamento radicale alla struttura e al comportamento delle truppe di Makhno, bisogna richiamare da Kozlov un numero consistente di commissari politici e di comandanti. L'alto comando del fronte meridionale emise un ordine di arresto per Makhno, ma esattamente in quei giorni il fronte meridionale si frantumava sotto l'attacco dei bianchi. Il quartier generale makhnovista invocò il ritorno all'unità con queste parole: «Abbiamo assoluto bisogno di solidarietà, di unità. Soltanto grazie allo sforzo e alla comprensione di tutti, soltanto grazie alla consapevolezza della nostra lotta e degli interessi generali per i quali combattiamo, potremo salvare la rivoluzione». Il 2 giugno Trotsky diede l'ordine di annientare la Makhnovichina scrivendo: «L'obiettivo primario della seconda armata ucraina è distruggere l'organizzazione militare dei makhnovisti e questo compito dovrà essere assolto entro e non oltre il 15 giugno». Quindi Makhno ruppe nuovamente con i bolscevichi, ma evitò di combattere contro di loro. Alcuni comandanti makhnovisti vennero arrestati e fucilati dai bolscevichi a Charkov. Makhno continuò la guerriglia nei territori occupati dai bianchi. I bolscevichi offrirono poi a Makhno un treno blindato e proposero uno stato maggiore congiunto, ma segretamente ordinarono il suo arresto. Il 9 giugno 1919, durante l'incursione dei bolscevichi nella regione makhnovista, la comune Rosa Luxemburg fu devastata dalle loro truppe e Kirillov e altri dirigenti makhnovisti furono dichiarati fuori legge. Le forze di Denikin, giunte nel villaggio dove sorgeva la comune qualche giorno dopo, distrussero completamente la comune e Kirillov fu fucilato. Alcuni giorni dopo, Makhno comunicò allo Stato Maggiore e al Consiglio che i bolscevichi avevano ritirato alcuni reggimenti dalla zona di Griscino e quindi aperto alle truppe di Denikin il passaggio alla regione di Guliaipole. I cosacchi, infatti, irruppero nella regione non dalla parte del fronte tenuto dagli insorti, ma dal fianco sinistro dove erano i reparti dell'Armata Rossa. I bianchi entrarono a Guliaipole. I combattimenti durarono dal 9 al 15 giugno. Le linee difensive della cittadina furono ben presto travolte. La quarta assemblea dei contadini e degli operai convocata per il 15 giugno 1919 avrebbe dovuto affrontare il problema alimentare che non era stato ancora risolto, ma fu dichiarata fuori legge dall'autorità sovietica. Anche se non credeva nell'alleanza con i bolscevichi, Makhno era comunque convinto che il nostro nemico principale, compagni contadini, è Denikin. I comunisti, dopo tutto, sono dei rivoluzionari, ma poi aveva aggiunto: con loro possiamo fare i conti dopo. Fino all'ultimo momento le autorità bolscevichi non si resero conto delle proporzioni dell'invasione intrapresa da Denikin. Ancora pochi giorni prima della caduta di Ekaterinoslav e di Charkov, Trotsky dichiarava che Denikin non costituiva un pericolo e che la situazione in Ucraina era solida. I bolscevichi poi abbandonarono l'Ucraina. Ed ora ascoltiamoci una vecchia canzone anarchica, Figli della plebe. Ho figli oppressi di plebe in catena, tanta giustizia dovrà ben finir. Se nostra vita è un calvario di pena, anziché schiavi è più fiero morir. Fiero i borghesi superbi ed avari, che mal dispregian l'umanità. Saran dispersi da noi libertari, all'alto grido di libertà. Vessillone, non più soffrir, lo sfruttamento si danni a ferir. Popolo in pie per l'ideal, al grido di rivoluzione social. Vendetto ignor, dobbiamo voler, solo l'unione la potrà ottenere. morrà, e il vil borghese morrà, morrà. Se il petto cuore all'unisono batte per una causa d'amore e di ben, se con ardore e con fe si combatte della vittoria la palmo terrem. O proletario, la vil borghesia dovrai sfidar con dignità, dovrai dei ricchi troncar l'albagia, la lor malvagia avidità. Vessillo ner, non più soffrir, lo sfruttamento è dannato a perir, popolo in pie per l'ideal, al grido di rivoluzione social. Ben detto ignor, dobbiamo voler, solo l'unione la potrà ottenere. Vessillo ner, trionferà, e il vil borghese morrà. Il 31 agosto le armate bianche guidate da Denikin entrarono a Kiev e si prepararono a lanciare un'offensiva contro la Russia centrale. Masse di contadini e di insorti dispersi nel paese, cercando di salvarsi, si unirono a Makhno. Da una settimana all'altra si formò intorno a Makhno un esercito rivoluzionario completamente nuovo. Con questo esercito giunto nei pressi di Alessandrovsk, Makhno cominciò ad attaccare i denikiani. Nell'armata makhnovista confluirono 4 brigate di artiglieria, la cavalleria e un certo numero di blindati. In tutto gli insorti erano circa 15.000. Da metà agosto 1919 Denikin strinse l'assedio Makhno. All'esercito di Makhno che si ritirava erano venute dietro da diversi villaggi migliaia di famiglie contadine con tutti i loro averi e il loro bestiame. Si era formato un immenso convoglio lungo parecchi chilometri che si muoveva verso occidente. Il 1 settembre 1919 i makhnovisti nella battaglia di Peregonovka infliggono ai bianchi una pesante sconfitta. Dal 25 al 26 settembre i reparti makhnovisti che sino allora avevano marciato verso occidente si volsero improvvisamente ad est e presero di fronte il grosso del gruppo denikiano e lo sconfissero. I reparti denikiani fuggirono verso il fiume Sinjuča, cercando di attraversarlo e di fortificarsi sull'altra riva. Battuto il più forte gruppo denikiano, i reparti di Makhno si divisero in 3 colonne, dirette verso l'area di Guliaipole. Possidenti, kulaki, gendarmi, preti, autorità locali cadevano vittime lungo la strada dei makhnovisti. Prigioni, stazioni di polizia, commissariati vennero distrutti. Sempre nel settembre 1919 gli anarchici clandestini fanno saltare la sede del Comitato Cittadino di Mosca del Partito Comunista per rappresaglia contro la fucilazione dei comandanti makhnovisti arrestati. Il 5 ottobre i makhnovisti riuscirono a rientrare nei propri territori e il 20 ottobre a Alessandrovsk tennero il congresso regionale dei soviet a cui parteciparono 217 delegati dei contadini, 37 degli operai, 17 delle formazioni militari e 17 del comitato militare rivoluzionario. Queste furono le decisioni che vennero prese. Abolizione delle fattorie statali e abrogazione del decreto sulla nazionalizzazione delle terre. Tutti i macchinari, i materiali, le attrezzature, la produzione, i trasporti e la vendita devono essere di assoluta competenza e a disposizione non dello Stato, ma delle unioni dei lavoratori liberi che in modo libero dal basso si federano tra di loro e con le organizzazioni contadine per mezzo dei soviet economici. Tutte le organizzazioni industriali, commerciali, di distribuzione, di trasporto formeranno dal basso verso l'alto una confederazione di tutti gli organi operativi sotto forma di soviet economici, i quali svolgeranno i compiti tecnici per regolare la vita socio-economica, su larga scala. Il mantenimento dell'esercito deve basarsi su contributi volontari da parte degli agricoltori, sui bottini di guerra e sulle requisizioni al ceto ricco. Dopo il congresso, il nuovo Comitato Militare Rivoluzionario risultò composto per il 42,5% da anarchici, per il 10,5% da socialisti rivoluzionari di sinistra, per il 2% da bolscevichi, per il 10% da operai senza partito e per il restante 35% da contadini senza partito. Dopo il primo vittorioso attacco dei macnovisti, però, i denichiani riconquistarono le città costiere ed entrarono nuovamente a Gugliaipole. Fra il 10 e il 15 ottobre 1919 fu siglato ancora una volta un trattato tra bolscevichi e macnovisti. Queste le clausole dell'accordo. Parte prima, accordo politico. 1. Liberazione immediata e fine della persecuzione dei macnovisti e degli anarchici nei territori delle repubbliche sovietiche, esclusi coloro che hanno aggredito armati il governo sovietico. 2. Piena libertà ai macnovisti e agli anarchici di agitazione e di propaganda orale e scritta, delle loro idee e delle loro concezioni, purché non invitino alla distruzione violenta del governo sovietico e osservino la censura militare. Nel campo editoriale i macnovisti e gli anarchici, quali organizzazioni rivoluzionarie riconosciute dall'autorità sovietica, fruiscono dell'apparato tecnico dello Stato sovietico, purché seguano le regole della tecnica editoriale. 3. Libera partecipazione alle elezioni dei consigli, diritto ai macnovisti e agli anarchici di entrarvi e libera partecipazione ai preparativi per convocare il quinto congresso dei consigli di tutta l'Ucraina che dovrà aver luogo in dicembre. 4. I rappresentanti del Consiglio e del comando dell'esercito macnovista propongono all'autorità sovietica il seguente punto quarto dell'accordo politico. Nei luoghi dove agirà l'esercito macnovista, la popolazione operaia e contadina organizzerà liberi organi di autoamministrazione economica e politica locale. Detti organi saranno autonomi e legati federativamente con gli organi statali delle repubbliche sovietiche. Parte seconda. Accordo militare. 1. L'esercito insurrezionale rivoluzionario d'Ucraina entra a far parte delle forze armate della Repubblica, come esercito di partigiani e per le operazioni militari dipende dall'alto comando dell'Armata Rossa. Conserva invece all'interno gli ordinamenti che aveva prima, non accentando né le basi né i principi propri ai reparti regolari dell'Armata Rossa. 2. L'esercito insurrezionale rivoluzionario d'Ucraina, muovendosi in territorio sovietico di fronte e oltre il fronte, non accoglierà nelle sue file reparti dell'Armata Rossa né disertori di questa. L'autorità sovietica rimandò per lungo tempo la pubblicazione dell'accordo. I macnovisti dissero che finché non fosse pubblicato, l'esercito macnovista non avrebbe potuto agire secondo i termini dell'accordo stesso. L'accordo, infine, fu pubblicato, ma il quarto punto dell'accordo politico, i bolscevichi lo omisero, dichiarando che esigeva una discussione particolare e un rapporto da Mosca. I rappresentanti macnovisti acconsentirono a discuterlo in separata sede. Il 20 ottobre i macnovisti occuparono Ekaterinoslav e molte località vicine. Wrangel, che ora comandava l'Armata Bianca, tolse dal fronte settentrionale i suoi migliori reparti di cavalleria e li inviò nella regione di Gugliaipole. Il 4 novembre il Comitato Militare Rivoluzionario concesse una relativa libertà di stampa affermando: tutti i partiti politici socialisti senza eccezione e tutte le loro organizzazioni e correnti hanno completa libertà di diffondere le proprie posizioni, idee, dottrine e opinioni, sia in forma orale che scritta. Dall'11 novembre Ekaterinoslav rimase per circa un mese nelle mani dei macnovisti. Gli effettivi cominciarono a crescere, arrivando a contare 110.000 unità. Inoltre riuscirono a procurarsi 3,5 tonnellate di grano e farina, che permisero alle truppe di avere cibo sufficiente. Nell'inverno del 1919 i macnovisti dovettero subire un'epidemia di tifo. Metà dell'esercito lo contrasse. Il 23 novembre il comandante del fronte dell'Armata Rossa, Frunze, invia un ordine che intima all'esercito macnovista di sciogliersi ed entrare a far parte dell'Armata Rossa, perché l'autorità sovietica stima che, al fine della distruzione di Wrangel, il compito dell'esercito partigiano si è esaurito. Quest'ordine annullava l'accordo militare e politico di ottobre. A metà dicembre, nei dintorni di Ekaterinoslav scoppiarono feroci combattimenti con le armate bianche che portarono i macnovisti a ritirarsi dalla città. I macnovisti provarono ad attaccare, ma le forze non erano sufficienti. Dopo aver ucciso e saccheggiato i soldati delle armate bianche, abbandonarono la città per la paura di contrarre il tifo. Intorno al 20 dicembre a Ekaterinoslav entrò l'Armata Rossa. Fu organizzato un incontro in cui i combattenti delle armate bolsceviche e macnoviste si strinsero la mano e dichiararono di avere un solo nemico comune, il capitale e la controrivoluzione. Questo accordo durò solo una settimana. Trotsky infatti affermò: «Il territorio ucraino è estremamente instabile. Se noi permettiamo ai partigiani ucraini di continuare a esistere nella speranza che da loro nasca il futuro esercito ucraino, questo porterà alla rovina per la seconda volta l'Ucraina sovietica, e questa volta per lungo tempo». L'esercito macnovista però aveva nel frattempo assorbito diverse migliaia di insorti della zona del Mar d'Azov, ma era a corto di munizioni e fucili. Dovettero quindi arroccarsi a Guliaipole. Vista la difficile situazione, Macno decise di tentare ancora una volta un'alleanza con l'Armata Rossa. Fu siglato effettivamente un patto militare e ai macnovisti arrivarono le munizioni, il che permise di scatenare l'offensiva già dal 4 febbraio. L'alleanza militare appena siglata includeva anche la consegna di diverse migliaia di fucili. Oltre alle armi e alle munizioni, Macno ottenne anche 2 milioni di rubli per poter pagare gli insorti. I comandanti dell'Armata Rossa avevano avuto l'ordine di stabilire buoni rapporti con i leader anarchici. I macnovisti vennero inquadrati nella terza brigata dell'Armata Rossa, che iniziò a crescere a passi da gigante. Dopo un mese e mezzo e un'avanzata di oltre 100 km, i macnovisti entrarono a Berniansk, il bastione occidentale dei bianchi. Era stato neutralizzato. Al contempo, altre formazioni macnoviste avevano percorso la stessa distanza verso il fronte orientale. Ma l'esercito macnovista venne ben presto percepito come un corpo estraneo nell'Armata Rossa. Non a caso Trotsky ordinò che la terza brigata cambiasse a immagine e somiglianza delle altre unità dell'Armata Rossa. Macno rispose: «L'autocrate Trotsky ha ordinato di disarmare l'esercito dei contadini insorti da loro stessi creato, perché capisce bene che se gli agricoltori hanno un proprio esercito per difendere i propri interessi, lui non potrà mai costringere il popolo dei lavoratori ucraini a ballare al suono del suo flauto. L'esercito insurrezionale vuole evitare di spargere sangue fraterno scontrandosi con l'Armata Rossa, ma essendo soggetto soltanto alla volontà dei lavoratori difenderà i loro interessi e deporrà le armi soltanto per ordine del libero soviet panucraino dei lavoratori, nel quale i lavoratori stessi esprimono la propria volontà». Il 29 dicembre i bolscevichi entrarono nel territorio macnovista, dando ordine a Macno di muoversi immediatamente verso il fronte polacco. L'ordine arrivava direttamente da Stalin. Il 9 gennaio Senza attendere la risposta di Macno, il comitato esecutivo panucraino mise fuori legge il movimento macnovista, facendo seguire il 14 gennaio l'ordine di disarmo generale per le truppe degli insorti. A metà gennaio 1920 Macno e il suo esercito furono di nuovo dichiarati fuori legge. In quegli stessi giorni almeno due divisioni sovietiche avevano già svolto operazioni militari contro i macnovisti, i quali, nonostante l'epidemia, avevano comunque conservato una notevole capacità offensiva. Il governo bolscevico si appropriò di tutto il grano che gli serviva e rispose alle proteste dei contadini con la repressione. In Ucraina il ritorno al sistema delle requisizioni forzate e l'introduzione dei comitati di gestione contribuirono a far aumentare nuovamente il numero degli insorti. Il 21 febbraio i macnovisti riconquistarono Guliaipole. C'erano su tutto il territorio del sud-est dell'Ucraina contadini armati. Non seguivano Macno nei suoi spostamenti, ma rimanevano nei loro villaggi e costituivano cellule capaci di difendere e sorvegliare la loro zona. Se quindi in una delle località c'era un organo del governo sovietico o un funzionario addetto alle requisizioni o un'unità di spionaggio che voleva ottenere informazioni sui macnovisti, allora il compito di queste cellule era di neutralizzarli e di segnalare ai distaccamenti principali la posizione delle unità dell'Armata Rossa presenti in zona. Inoltre i contadini custodivano le munizioni dei macnovisti e curavano i loro feriti. I bianchi fecero diversi tentativi per stabilire un contatto con Macno. I messaggeri di Wrangel effettivamente si incontrarono con Macno, ma egli stesso ordinò di ucciderli. Ascoltiamoci ora un'altra canzone anarchica, l'Inno della Libertà. Le plebi sotto il giogo del borghese, languendo stan, languendo stan, da fame stenti ed appellagro offese, morendo van, morendo van. Ma delle smorte plebi unite a un patto, il dì verrà, il dì verrà. Ma il dì solenne grande del riscatto presto verrà, presto verrà. Su compagni liberi sorgiam, su compagni sulla fronte alziam. Già splende il sol dell'avvenir, già splende il sol dell'avvenir. Di pace e libertà glorioso il sol risplenderà, di pace e libertà glorioso il sol risplenderà. Ci su chiam senza posa quei signori, sangue sudor, sangue sudor. Chi più non ha né sangue né sudori, non fa per lor, non fa per lor. Ma delle smorte plebi unite a un patto, il dì verrà, il dì verrà. Ma il dì solenne grande del riscatto presto verrà, presto verrà. Su compagni liberi sorgiam, su compagni sulla fronte alziam. Già splende il sol dell'avvenir, già splende il sol dell'avvenir. Di pace e libertà glorioso il sol risplenderà, di pace e libertà glorioso il sol risplenderà. Il 27 aprile 1920 la sezione culturale degli insorti redasse il manifesto macnovista. Ne leggiamo una parte. Che cosa intendiamo per emancipazione? Il rovesciamento dei governi monarchici, di coalizione, di repubblicani, socialdemocratici e del Partito Comunista Bolscevico, cui deve sostituirsi un ordine indipendente di Soviet dei lavoratori, senza più governanti né leggi arbitrarie. Perché il vero ordine dei Soviet non è quello instaurato dal governo socialdemocratico comunista bolscevico, che ora si definisce potere sovietico,